Mix 24 di Giovanni Minoli. Era il 1916, esattamente 100 anni fa, quando Albert Einstein illustrò la sua teoria della relatività generale. Lì c'era l'intuizione delle onde gravitazionali. Oggi non è più un'intuizione, sono state trovate. In tanti già parlano della scoperta del secolo. Fino ad ora non c'era possibile vedere i buchi neri o le stelle di neutroni. Con la scoperta delle onde gravitazionali potremmo riuscire a conoscerli meglio. Ad individuare le onde gravitazionali è stato negli Stati Uniti lo strumento LIGO. Gli scienziati di LIGO lavorano in collaborazione con l'equipe franco-italiana di Virgo a Cascina, città nella provincia di Pisa. La scoperta della loro esistenza apre nuove prospettive. Ora, oltre che vederlo, sarà possibile anche sentire l'universo nella sua essenza di spazio-tempo. Questo è il suono che viene dall'universo, anzi dalle onde gravitazionali, di cui sappiamo ormai tutto, anzi in realtà sappiamo molto poco. Federico Ferrini è il direttore dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, di cui fa parte Virgo, lo strumento italiano progettato per dare la caccia alle onde gravitazionali. Allora, dottor Ferrini, tanto buongiorno. Cos'è Virgo? Buongiorno. Virgo è un grande esperimento fisicamente costituito da un interferometro, cioè un sistema in cui la luce passa e viene deviata da uno specchio centrale in due direzioni perpendicolari. La luce poi ritorna, grazie a due specchi posti ai terminali dei due bracci, ritorna indietro e gli spostamenti degli specchi terminali vengono visti su un rivelatore, mostrando quindi un effetto dinamico sul sistema complesso. Ecco, ma che cosa serve esattamente Virgo? Virgo serve per rivelare queste onde gravitazionali, cioè queste increspature dello spazio-tempo previste da Einstein, generate da catastrofi nell'universo, in qualche parte dove ci siano delle grandi concentrazioni di massa, di energia. Ecco, ma e dove si trova? Virgo si trova nella Campania, vicino a Pisa, a pochi chilometri da dove Galileo cominciò con la storia dell'astronomia scientifica. Senta, ma è stato proprio Virgo a registrare il suono dell'universo che abbiamo ascoltato poco fa? No, sono stati due interferometri americani LIGO. LIGO e Virgo lavorano in società. Noi siamo una collaborazione a tutti gli effetti mondiale, per cui i tre interferometri della classe LIGO e Virgo con bracci di 4-3 chilometri lavorano insieme. I due LIGO sono stati migliorati negli ultimi anni e Virgo è in corso di miglioramento e sarà terminato questo upgrade dell'infrastruttura tra un mese circa, e ora sono in funzione i due LIGO. Virgo si unirà a settembre. Ecco, nel 2011 eravamo solo noi in funzione, mentre LIGO non funzionava, per cercare di beccare qualche segnale. Stiamo alternando. Senta, 100 anni fa l'abbiamo detto, Einstein aveva previsto questa scoperta, ma esattamente cosa aveva scoperto? Cosa aveva previsto? Dunque lui aveva scritto le sue bellissime equazioni della relatività generale. D'accordo. E poi dopo si è messo a vedere se queste equazioni permettevano delle soluzioni, perché le equazioni di fisica sono una causa e l'effetto. Allora, ispirandosi a quello che Maxwell aveva fatto per le equazioni del campo elettrico e magnetico, scoprendo la soluzione delle onde elettromagnetiche che poi hanno portato a Marconi a fare la radio, certo, sostanzialmente, Einstein ha usato lo stesso atteggiamento. Si è posto la domanda: vediamo se esistono delle soluzioni tipo onda che si propaga a una certa velocità. E le ha scoperte, le ha trovate. Ecco, ma cioè, comunque, il segnale delle onde gravitazionali finora non era mai stato captato. Adesso che l'abbiamo captato, che cosa cambia? Beh, cambia che noi abbiamo una finestra completamente nuova per vedere l'universo, perché possiamo vedere delle strutture, tipo i buchi neri, quelli che abbiamo finalmente visto, anche questi erano previsti ma nessuno li aveva visti, delle grandi concentrazioni di massa che subiscono delle transizioni catastrofiche. Questi sono oggetti che non si vedono con nessuno degli strumenti astronomici a disposizione oggi. E quindi potremmo avere delle spiegazioni di tanti effetti dell'universo e poi... Ma più che visti li abbiamo sentiti, no? Li abbiamo sentiti, sì, perché le frequenze in cui questi oggetti emettono con onde gravitazionali sono quelle frequenze acustiche. Ecco, ma dov'è avvenuta questa collisione tra buchi neri che ci ha mandato questo rumore? È avvenuta 1.300.000.000 di anni fa, a una distanza molto grande da noi, per fortuna, perché la quantità di energia che è stata emessa durante questa collisione era pari a 50 volte tutta l'energia dell'universo nelle onde elettromagnetiche. Ah, ma si prenderà il Nobel per questa scoperta? Ma io penso che i grandi padri fondatori di questo tipo di esperimenti hanno tutti le carte in regola per avere il Nobel, quindi io penso a un paio di scienziati negli Stati Uniti e in Europa c'è un italiano che è stato uno dei padri iniziali che ha dato l'idea di andare a cercare proprio nelle frequenze in cui noi abbiamo il 14 settembre visto questo segnale. Ecco, ma quali saranno le evoluzioni di questa scoperta? Ma dunque, noi ci proponiamo di sistematicamente utilizzare questi strumenti per cercare di creare una fisica di questi fenomeni, quindi ci aspettiamo di vedere almeno un segnale al mese a partire da settembre prossimo. Un segnale al mese di del risultato dell'energia che deriva dagli scontri di questi buchi neri? Esatto, queste sono più o meno le statistiche iniziali. Può darsi che la natura ci dia delle statistiche differenti, ci siano di più, ce ne siano di meno, però noi ci aspettiamo di avere almeno un segnale al mese. Senta, è stata definita la scoperta del secolo, ma può spiegarci in parole proprie perché è così importante? Perché francamente tutti fanno finta di capirlo, ma non è così semplice. È dura. Insomma, ci sono vari motivi. Uno è che finalmente si è dato, come dire, conferma questa, l'ultima delle previsioni della relatività generale che erano molto diverse dagli studi sulla gravitazione fatte prima di Einstein, per cui diciamo già questo è una base solidissima e conclusiva della teoria della relatività generale. Cioè la verifica che Einstein era un super genio, diciamo. Sì, ci ha beccato veramente. E l'altra? Questo ci conforta. Sì. L'altra è che effettivamente noi possiamo cominciare a pensare di andare a vedere, magari tra 20-30 anni, cosa è successo quando c'è stato il Big Bang, l'inizio della storia dell'universo. Perché all'inizio della storia dell'universo ci sono stati vari segnali quando questa super catastrofe iniziale è avvenuta. Sì. Uno sono, diciamo, la parte luminosa, la luce, ma la luce è stata intrappolata durante le fasi iniziali. Noi vediamo la luce che viene 300.000 anni dopo il Big Bang, dopo è tutto oscuro, non possiamo vedere, c'è un muro. Poi sono stati lanciati dei neutrini, ma sono stati lanciati neutrini un certo tempo dopo il Big Bang. Questi qui ancora non li vediamo, ma si spera che prima o poi riusciremo a beccare. Ma c'è un rapporto, faccio una domanda stupidissima, ma tra questa scoperta e il bosone di Dio? Beh, tutto sommato, diciamo, sono fenomeni che probabilmente sono partiti uno dopo l'altro all'inizio della storia dell'universo. E il bosone di Higgs, la fase in cui il bosone di Higgs era importante perché ha dato, come dire, la segnatura della massa delle particelle, è avvenuta un certo tempo dopo il Big Bang, un tempo molto breve, 10 alla meno 15 secondi, una cosa spaventosa. Proprio un frammento di un nulla. Un frammento di nulla. La cosa divertente è che le onde gravitazionali, secondo la teoria di Einstein, che a questo punto noi ci scommettiamo, è avvenuta a 10 alla meno 43 secondi dopo il Big Bang. Quindi ancora molto prima. Senta, un'ultimissima cosa. Ma secondo lei, per lei, questa scoperta avvicina o allontana la scienza e la fede? Ma senta, io sono un uomo di scienza, ma sono anche un credente. Io come Kant trovo le due cose assolutamente parallele, elegantemente che convivono, tutto sommato. Il Big Bang probabilmente è ben avvenuto per cause di fisica, però questo non esclude assolutamente una divinità. L'avvicinarsi è bellissimo perché ci stiamo avvicinando al tempo T uguale a zero, che è una peculiarità del nostro universo. Vabbè, Mario, mi sembra tutto chiarissimo, no? Sì. Hai capito tutto? Ma io leggo di queste cose. Sì. Ti è tutto chiaro? Abbastanza. Sì. Sì, uno può anche leggere il concetto di tempo di Heidegger, se vuole. Un libricino fine che sa delle cose. Va bene. Se vuoi anche un trattatello di astrofisica. Vabbè, trattate la nostra fisica, ti allontani un po'. Tu, Pietrangelo, senza fede, che dici? Me la cavo con una con la canzone per eccellenza sulle di Franco Battiato. Non la sentiamo? Qual è? Dovete prenderla. Dagli il titolo intanto. Vabbè, niente, ok. Non avevamo la canzone. Non c'erano la canzone. Vabbè, facciamo 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS, andiamo in Francia. Vai. La Banca di Francia rivede al ribasso le stime sull'economia transalpina. La crescita del prodotto interno lordo si fermerà allo 0,3%. Rallenta pure l'indice industriale. Il mercato del lavoro resta fermo, quasi 90.000 disoccupati in più nel 2015. L'agenzia Fitch ha tagliato il rating della Francia dalla AA Plus a AA. Il motivo sarebbe da attribuire alla debole prospettiva dell'economia transalpina. Il sistema bancario francese è solido? No, sono pas... non è più solido di quello italiano. La vraie situation. Ecco Lorenzo Binismaghi, un economista, docente ad Harvard, ex membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, presidente di SNAM. Professor Binismaghi, ecco, si parla tanto dell'Italia come sorvegliato speciale dell'Unione Europea, polemiche non mancano, ma mi pare che anche la Francia ha problemi molto seri. Il ministro degli esteri Fabius si è dimesso, al governo c'è stato un rimpasto, diciamo, all'italiana. Che cosa ha sbagliato Hollande, professore? Tutto si sta preparando alle elezioni, che sono tra circa un anno e un poco più, e dove questo impasto è, diciamo, puramente elettorale. Ma è funzionale alle elezioni? Funzionale, sì, anche perché ha imbarcato un po' di verdi e questo li ripara la sinistra, diciamo. Senta. Poi sicuramente l'economia francese non parte come sperava. E infatti Hollande ha detto esattamente: siamo in piena emergenza economica. Cosa vuol dire? Ma dunque lui quando ha vinto le elezioni ha detto: io mi ripresenterò solo se la disoccupazione scende, e la disoccupazione non sta scendendo, dunque lui sta un po' drammatizzando la situazione per prendere misure, perché se entro la fine dell'anno la situazione non migliora rischia di dover rinunciare al secondo mandato. Ecco, professor Binismaghi, l'asse tra la Francia e la Germania in Europa è ancora forte, oppure, come spera Renzi, si può approfittare di una debolezza e fare asse col Regno Unito di Cameron? Ma guardi, sono 60 anni che la Francia e la Germania lavorano insieme, tra l'altro senza mai accusarsi l'un l'altro, coinvolgendo tutte le strutture, tutti i ministri, fanno riunioni congiunte una speranza vana, insomma, una speranza vana quella. Insomma, una speranza, sì, un po' un'illusione. L'una fiducia nell'altro, che indipendentemente da governi di destra e di sinistra è quello che ha tenuto insieme l'Europa. E, insomma, dopo le tecnostrutture si parlano in continuazione, quindi sì. Sì, c'è un dialogo continuo. E non, poi soprattutto non ci si accusa, non ci si manda via stampa delle accuse di fiducia o di sfiducia. Ecco, a proposito di accuse di sfiducia, Renzi ha messo sotto accusa l'austerity europea, però la Francia, come l'Italia, ha continuato in questi anni a spendere moltissimo. I problemi, invece di risolversi, l'ha detto anche lei, sono rimasti. Allora la strada non è quella. No, appunto, non è spendendo di più che si risolvono i problemi. L'unica cosa è che la Francia ha il vantaggio di non avere il debito pubblico italiano, dunque per certi versi è un po' più protetta, ecco, nel fare questo. Però effettivamente la Francia, la spesa pubblica rispetto al PIL è addirittura più alta che in Italia, e non è che la crescita sia poi così migliore. E perché secondo lei? Ma perché alla fine spesa pubblica elevata vuol dire tasse alte. Il problema della crescita francese è che ha una tassazione sulle imprese e sugli individui molto, molto elevata, oltre a rigidità poi del mercato del lavoro, sono abbastanza simili a quelli italiani. Senta, lei è stato per molti anni nel board della BCE e ha potuto vedere naturalmente da vicino i problemi dell'Eurozona. Lei è d'accordo sulla proposta fatta dai presidenti delle banche centrali di nominare un ministro del tesoro unico per l'Europa? Ma dunque, io sono un po' sorpreso, perché è circolato questo documento italo-francese che in realtà non lo propone questo ministero, se ne è parlato molto sui giornali italiani, ma menziona questo ministro del tesoro europeo per dire che poi non si farà. Nessuno ha notato che l'alternativa, si dice, ma una via sarebbe quella di fare il ministro europeo, però in realtà, siccome non è fattibile politicamente, l'alternativa, e qui nessuno ne ha parlato in Italia, l'alternativa è vincoli più rigidi, soprattutto per i paesi che non rispettano i vincoli. Per cui insomma, mi sono un po' sorpreso che in Italia si sia parlato solo della prima opzione, che in quel documento è stata praticamente scartata. E invece, secondo lei, la vera strada è quella dei vincoli più stretti? Ecco, no, io fossi stato io Italia, avrei detto no, c'è una terza via, che è quella di muovere in modo più graduale, perché non pensare a un ministro oggi europeo forse effettivamente è un po' troppo lontano, ma fare un percorso di condivisione dei rischi, ma anche di riduzione dei rischi, cioè rispettare le regole, ma creare dei meccanismi che, se c'è un problema, condividiamo poi gli effetti negativi. Ecco, ma meccanismi che vuol dire? Lei ha in mente quali possibili? Per esempio, un'assicurazione unica dei depositi o un sistema di ammortizzatori sociali che, in caso di disoccupazione elevata, aiutano a finanziare la disoccupazione. Ecco, questi meccanismi qui sono aiutano in caso di recessione, in caso di shock negativo, a condividere l'impatto su tutta l'area, ecco, ma far scaricare solo sulla parte più debole. Certo, ma parlando di meccanismi, ce n'è uno, per esempio il bail-in. Oggi improvvisamente, dopo essere stato votato dai parlamenti, è figlio di nessuno, lo ripudiano i partiti, Banca Italia ne chiede la revisione. Ma dove è stato l'errore? Cioè, è grossa questa. Ma in realtà il problema non è tecnico, il problema è politico, cioè è figlio della crisi, e nessun governo europeo, nemmeno quello italiano, è pronto a usare fondi pubblici per aiutare le banche. Per cui, perché se no, altrimenti verrebbe accusato immediatamente dall'opposizione, da tutti, dai cittadini, di usare appunto fondi pubblici per usare le banche. Dunque il bail-in è figlio della politica, anche se la politica... Sì, ma la politica lo ha votato e adesso lo ripudia, però. Esatto, è certo, perché però quale sarebbe stata l'alternativa al bail-in? Appunto, il governo italiano... Quello che ha fatto la Germania... No. Ma la Germania l'ha fatto prima, è stato criticato dai cittadini e ha detto va bene, è l'ultima volta che lo faccio, non succederà più. Noi abbiamo fatto finta di avere delle banche fortissime, e poi non è vero. Forse dovevano essere un po' più furbi. Era necessario, mi pare, no? Sì, perché poi alla fine, se non avessimo avuto queste regole di bail-in, il governo italiano sarebbe stato disposto a utilizzare fondi pubblici per salvare le quattro banche, non penso proprio, sarebbe stato ancora più criticato se l'avesse fatto. Per cui alla fine forse è l'unica soluzione possibile, anche se non è ottimale. Senta, il quantitative easing non basta, non è bastato ad assicurare una ripresa forte in Europa. La borsa crolla, l'inflazione è troppo bassa. Che alternative abbiamo? Purtroppo le altre aree del mondo stanno facendo il quantitative easing. Se noi non lo facciamo neppure noi, avremmo un tasso di cambio dell'euro che si apprezza, come stiamo vedendo in questi giorni. Il problema è che non basta fare quantitative easing, dobbiamo fare anche politiche che stimolano la domanda, che rendono più appetibile l'area dell'euro come area dove investire. Dunque bisogna fare riforme, bisogna... E quali riforme sono urgentissime? Beh, le riforme che rendano, in particolare i paesi che crescono meno, appetibili agli investitori internazionali, mercato del lavoro, giustizia, amministrazione pubblica. L'Italia ha cominciato, ma poi si è un po' persa per la strada. Ma perché, secondo lei, il mercato improvvisamente ha smesso di credere alla crescita? Per queste ragioni? No, in parte ci sono una paura, ci sono varie paure, c'è la paura della Cina che crolla e di una svalutazione forte della moneta cinese, c'è la paura dell'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, paura che il petrolio... Lei crede che uscirà l'Inghilterra dall'Europa? Ma io penso che gli inglesi sono pragmatici, alla fine valuteranno che l'interesse dell'Inghilterra è l'immediato di rimanere, però questo rischio, guardando ai sondaggi, Cameron insomma ha fatto, credo che ha commesso un errore clamoroso di lanciare questo referendum per cercare di... C'è un rischio grosso che prende. Partito, ma c'è un rischio, certo. Senta, il referendum non si sa mai come vanno a finire. Certo, la Federal Reserve ha fatto una mossa rischiosa quando a dicembre ha alzato i tassi? Ma credo che se non l'avesse fatta poi sarebbe stata criticata in senso opposto. Credo che in quel momento era la cosa giusta da fare. certo, quando c'è tutta questa liquidità, un aumento dei tassi porta incertezze. Bisogna ora un attimo aspettare, vedere come i mercati si aggiustano, ma poi forse la seconda metà dell'anno farà altri incrementi se l'economia americana tiene. Tiene. Senta, sono 6 anni di ripresa, per cui è normale che dopo 6 anni di ripresa ci sia un po' di flessione. Un po' di flessione. Professor Binismaghi, lei ha scritto un libro per il Mulino intitolato 33 false verità sull'Europa. Ma mi dice le prime tre false verità più gravi? Ma se vuoi ne dico una che è un po' che è quella che è più irritante, trovi. Sì. Mi faccio di dire che a Bruxelles ci sono sempre i burocrati, invece nei paesi ci sono i politici, e che sono i burocrati che impediscono alla politica di prendere decisioni. In realtà a Bruxelles o nelle decisioni, chi decide è sempre la politica, perché c'è il Consiglio europeo che è fatto dai capi di governo, quella Merkel, Hollande e Renzi. La Commissione europea è fatta di politici, cioè Juncker è stato primo ministro e certo. Tra i vicepresidenti della Commissione europea sono quasi tutti ex ministri. Insomma, alla fine è un tentativo di delegittimare l'Europa dicendo sono burocrati. In realtà lei dice che l'Europa non è vero. È politica. L'Europa è politica e si fa politica in Europa. E qual è il paradosso? Bisogna... Il paradosso dell'euro di cui parla lei? Qual è il paradosso? No, il paradosso dell'euro è che alla fine ne traiamo tanti benefici. Uno di questi, per esempio, è tassi di interesse sui minimi storici, no? In Europa, in particolare in Italia, abbiamo dei risparmi enormi sul debito pubblico, sugli interessi, però poi quando c'è un problema si dice la colpa è dell'euro, dunque non se ne riconosce vantaggi e si cerca di scaricare sull'euro solo le colpe di una bassa crescita o di eventuali problemi che sono in realtà spesso problemi di incapacità dei paesi di riformare. Ma tra la Francia e l'Italia chi sta peggio alla fine? Come crescita la Francia sta un po' meglio, come debito sta meglio, come struttura e flessibilità dei mercati sta un po' peggio, nel senso che alcune riforme la Francia ancora non le ha fatte. Cioè ha uno Stato che funziona, la forza della Francia è uno Stato che funziona, un'amministrazione pubblica che funziona, e anche se magari c'è una leadership un po' debole in questo momento, in vista delle elezioni, comunque è un paese che è organizzato, che è strutturato e i mercati lo riconoscono. Quindi Francia e Italia 1-0 secondo lei? No, penso che sia da mettere in questo presunto, però bisogna, entrambe devono lavorare per ammodernare, anche perché il gap con la Germania aumenta. La Germania ha fatto le riforme, Italia e Francia ancora non le hanno fatte, le hanno fatte solo la metà. Professor Binismaghi, un'ultimissima cosa, si parla di lei sui giornali come di prossimo presidente di Chianti Banca, è vero? No, ma come dire, questa è una cosa, ho dato la mia disponibilità a dar mano a delle piccole banche e di mettersi insieme, questo poi vedremo quando la situazione si concretizzerà. Quindi la possibilità c'è? Insomma, io sono appunto sul territorio per stare vicino a chi aiuta le imprese sul territorio a crescere, il mio piccolo contributo sicuramente lo darò. Vabbè, tu Mario che dici? Lo farà il Presidente? Non lo so, però insomma la descrizione, no, è fedele. È fedele, senti, però sì. Insomma questa, la Francia, anche la Francia c'ha i suoi grandi problemi, l'Italia ce li ha, la Spagna anche, il Portogallo anche, insomma sta ben solo la Germania. Beh, anche i tedeschi hanno i loro, no? Un po' la produzione ha rallentato. Insomma, però... sta Europa? Vabbè, l'Europa è una costruzione che è importante perché ci ha consentito di fare pace, d'accordo, dopo che aveva la guerra, d'accordo, con una governance che deve essere migliorata. Senti, sì, vabbè, questo è ovvio. A me colpi, tu dici, Pietrangelo? L'Europa è un'espressione bancaria, dopodiché non esiste politicamente, per ora siamo tantomeno nel sentimento dei popoli. Poi la Francia, più di ogni altro, paga una contraddizione, e cioè quello di avere una rappresentanza politica, in questo caso Hollande e i socialisti, che non corrispondono poi nei numeri, nella maggioranza e nella sensibilità a quella che è la vera identità della Francia. Tant'è vero che ogni campagna elettorale è una gara, diciamo, con handicap, dove vediamo correre, vediamo arrivare per primi e poi non ottenere risultato. È il caso di Marine Le Pen. Beh, infatti vedremo, le elezioni in Francia saranno... Vediamo cosa succede. No, a me ha colpito molto della Francia invece il fatto che il primo ministro insiste su questa cosa che ci saranno gli attentati terroristici. Penso, no, ma quello dà come Penso come che ne qualcosa. Abbiano evidenza. E poi, sai, i governanti lo fanno anche per... No? La paura aiuta, aiuta il potere a restare dove è. Insomma, ecco, per un sacco di motivi, però credo che ne abbiano abbastanza, come dire... Senti, ma intanto le borse sappiamo come sono... Sono aperto positive, tieni presente che poi è chiusa Wall Street oggi, quindi non... Senti, c'è Mauro, sì. Mauro da Udine, e dice: ciao a tutti, potete chiedere a Mario il titolo del trattato di astrofisica, sì, a cui accennava? Una delle tante cose pazze, tra virgolette, che leggo. L'autore si chiama Brian Green, sì, Brian Green, e è un libro sugli universi paralleli, molto bello. Prima di quello consiglio di leggere invece un trattato generale di astrofisica, sempre di Brian Green, e poi di leggere questo eventualmente. Sì. Se non gli piacesse questo autore, può leggere Mikio Haku, universi paralleli. Questo sfoggio pazzesco, tu hai un consiglio da dare. Io leggo queste cose fin da quando ero bambino, però non mi sono iscritto, certo, a fisica, ed è stato un grave errore, secondo me. Sì, perché sei ridotto a occuparti di politica. Se sì, di questa roba inutile. Possiamo chiudere facendo la sentire la canzone. Le correnti gravitazionali di Battiato. Ma questa va a fare un casino. Alla questa cura trovi. L'avete trovata? No. Vabbè, ci fa... Telefonata, chi c'è? Chi è? Anna, buongiorno Anna. Buongiorno Anna. Sì. Anna, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica, senta, tutto. No. Ecco, prima mi scuso eventualmente della mia ignoranza. Non si preoccupi, qui siamo in buona compagnia. Si va in banca, o perché è comoda vicino casa, o per altri motivi. Si mettono lì proprio i soldini. Poi, a fine anno, ammesso che qualcuno ci capisca o voglia sapere, le banche vanno bene, vanno male, vanno meglio, vanno peggio, ma non si sa mai perché. Allora io dico, se io sono un correntista, vorrei sapere che cosa fanno come politica i dirigenti, il consiglio di amministrazione della banca, a chi danno i finanziamenti, a quanto li danno, con quali garanzie, a che tasso, per sapere questa banca mi va di starci o no. È naturale. Le banche non rendono ma lei ha ragione, credo che fanno. Ha ragione Anna, e credo che questo sia il problema. È come l'amministratore di un condominio che gli dai i soldi per le bollette e poi lui non ti dice come la spendi. Esattamente, infatti allora, credo che questo... c'è un rappresentante dei correntisti nel consiglio d'amministrazione delle banche? Perché o... cambiano comunque i correntisti. Ci sono i consiglieri indipendenti comunque. Teoricamente. Comunque questa chiarezza, questa operazione trasparenza delle banche oramai credo che sia inevitabile, signora, perché tutti hanno questo problema, e senza la fiducia nella banca nella quale depositi i tuoi soldi crolla tutto, e quindi è una necessità oltre che un diritto dei correntisti. Grazie signora. E intanto qui che dicono ancora onde gravitazionali, no. Ieri in Francia frontiere controllate, cos'è l'Europa? Vabbè, insomma. Sono controllati ovunque. Oggi c'è una riunione dei paesi dell'est, Polonia, Slovacchia e così via, su questo. Si riuniscono da soli dopo un vertice europeo. È la realtà che va avanti, no? Ci abbiamo la canzone, è arrivata? Allora chiudiamo così. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Mix 24. Intanto abbiamo Massimo da Napoli. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno, volevo brevemente, era una domanda anche osservazione allo stesso tempo, sì, riguardo l'intervento del professor Bini Smaghi, sì, che mi trovo d'accordo solo in parte, anzi voglio porre un rilievo critico riguardo all'affermazione che tassi bassi europei stanno determinando un risparmio sui interessi del debito pubblico italiano. Se questo fosse vero o totalmente vero, come mai il debito pubblico italiano, che non se ne parla più, e questo è un altro fatto strano anche dei massimi italiani, che praticamente adesso è arrivato a quasi 145% in termini percentuali. E la domanda qual è? La domanda, dico, c'è qualcosa che non va nel meccanismo, forse non è vero, per cui i tassi bassi stanno facendo diminuire il debito italiano, e quali sono i meccanismi che stanno determinando il debito italiano? Voglio far presente che 4 anni fa la riforma delle pensioni doveva far risparmiare 60-90 miliardi di euro, ma questi soldi poi hanno diminuito il debito italiano. Massimo, Massimo, abbiamo capito, qui c'è Mario che freme per rispondere. È più semplice di quanto appaia. Allora, è vero che il servizio del debito costa meno, cioè paghiamo meno interessi e sono tanti miliardi. Purtroppo lo Stato continua a costare tantissimo, le amministrazioni centrali e periferiche continuano a spendere moltissimo e non c'è ancora una spending review adeguata. Su questo vediamo se adesso, visto anche il calo della produzione eccetera, si metterà a mano alla spesa in maniera seria. L'altra cosa è che noi continuiamo a mettere un sacco di debito e quindi questo comunque è destinato in qualche maniera a esserci ancora per molto. In realtà le proiezioni per i prossimi anni danno una diminuzione del debito, così ha promesso anche Padova, vediamo speriamo, promesse se ne fanno tante, esatto. Vediamo se questa vediamo i numeri verrà, come sempre. Appunto, Pietrangelo, cosa ci fai sentire stamattina? Arriva. We could let this love be the fading sky. We could drift all night into the new sunrise. Pass me a drink or maybe two. One for me and one for you. And we'll be free. È perché oggi le piazze erano mare, le strade canali e le stazioni erano dei porti. Oggi era tutto un desiderio di fuga e non c'erano automobili ai semafori, ma barche. E l'amore si perdeva in dissolvenza col cielo per tornare indietro come una vela ubriaca di felicità. E insomma, ha telefonato stamattina Walter Chiari e l'ha dedicato a Delia Scala. Mario, una notizia dalla quale io non ho la risposta certa. Figurati. Questa è chissà, magari. Questa della cessione di una parte delle acque territoriali italiane alla Francia, perché se ne è parlato, ho letto un'intervista in cui dice adesso i gamberetti italiani li abbiamo regalati ai francesi. Ti confesso che la questione dei gamberetti, seppur molto importante, non sicuramente fondamentale, purtroppo non mi ha appassionato. Perché effettivamente cedere acque territoriali è strano. Se è vero o no, non lo so. Non lo so, io non mi occupo di... Non è solo gamberetti. Proprio, abbiamo regalato alla Francia un po' di territorio. Ho letto i titoli, ma non ho approfondito. Tu lo sai, tu sai tutto, Pietrangelo. No, io volevo fare una domanda a Mario. Vabbè, ho capito. Vai. No, io vedo che in rete sta esplodendo una questione sulla reversibilità delle pensioni. Che ha combinato il governo? Non ho capito perché. Per estenderla alle coppie omosessuali le ha tolte alle vedove? Sì. Alle casalinghe? Pare di sì. E quindi che cosa succederà? Che le vedove si sposeranno tra loro e nessuno potrà dire nulla. Che governo. Che arcobaleno. Che meraviglia. Cos'è? Dai, il governo della bolla. Vai con la tua bolla. Sì, sì. Anche a Sanremo l'arcobaleno ha vinto. È forte, dai. Questa è la reversibilità. Club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me. Questi sono i Kinks, no? Questa è la scelta della Guerrera, stamattina ha fatto lei, ma parte un po' di ritmo in questa, che non mi ricordo più. Fammi sentire, regia. Un po' c'è. Cosa succede questa settimana? Perché non mi sono occupato di gamberetti, però sto guardando con molto interesse. Ma te fai tanto tutto furbo sui gamberetti, quella è cessione del territorio nazionale. Non posso leggere tutto. Invece è molto interessante, secondo me, quello che dirà oggi, oltre ai gamberetti, Mario Draghi al Parlamento Europeo. Intervento molto atteso, ovviamente, perché prelude poi a un intervento della BCE sul quantitative easing a marzo. Vediamo se mettono più soldi, che cosa comprano, cosa usano, eccetera. Il Giappone, avete visto anche nei titoli dei giornali radio, male la produzione, però accidenti, la borsa ha fatto più 7. Sono i misteri dei mercati. In tutto questo, mercoledì la Federal Reserve pubblica i verbali delle sue decisioni. Sono sempre da guardare con interesse per capire se la Federal Reserve a sua volta farà un aumento dei tassi in marzo, oppure, come chiedono molti gestori di fondi, non lo fanno, aspettano. Non lo fanno. Beh, c'è chi chiede il taglio addirittura, esatto, di tornare indietro. E il momento clou della settimana è sicuramente 18-19, certo, quando si riunisce il vertice dei capi di Stato europei e in agenda c'è il Brexit, cioè il referendum sulla permanenza o meno del Regno Unito in Europa, e quindi un probabile accordo con Cameron. Accordo bocciato dai giornali, impallinatissimo. I sondaggi anche oggi, sì, ne ho visti due, si vede. Il popolo Brit è completamente spaccato. Mezzo milione ha preso un bel rischio Cameron con questo, mezzo milione di italiani lavora là, quindi ci riguarda anche molto, anche da vicino, più di quanto si immagini. Pietrangelo Salamino arriva. Contratti niente, no. Congratulazioni tante, lavoro non ce n'è, complimenti a Tinkite. Okay. 30 ricercatori italiani sono stati premiati in Europa, 17 tra loro però sono cervelli in fuga, e il ministro Stefania Giannini... Ape Maia, qual... L'ape Maia, non ho detto qual è, ma quale, al modo dell'ape Maia, vola. Esulta! Un'altra ottima notizia per la ricerca italiana. Siamo al terzo posto in Europa. Manco poco che diceva, siamo arrivati uno. Oh, allora, e forse quindi? Io dico che forse ha ragione Matteo Renzi quando impone il silenzio ai suoi ministri, quando non li fa parlare, perché quando parlano fanno danni. Perché immediatamente su Facebook... Grazie a Roberta D'Alessandro, una dei premiati, una delle ricercatrici vincitrici del bando europeo che assegna mezzo miliardo di euro, ha risposto così: Ministro, la prego di non vantarsi dei miei risultati. Vorrei sottolineare dei miei risultati. L'assegnazione del fondo di ricerca, il mio e quello del collega Francesco Berto, è olandese, non italiano. L'Italia non ci ha voluto, preferendoci nei vari concorsi persone che nella lista degli assegnatori dei fondi non compaiono né compariranno mai. Oh, cioè, è arrabbiata vera. Fa benissimo Renzi a non farli parlare questi ministri, no? Perché quando ma esultano su Facebook, sì, è una cosa meravigliosa. Perché poi guarda, caro Mario, quando vengono smentiti dai fatti, Roberta D'Alessandro è diventata una star in rete, e sì, la sua piccola precisazione, quello che lei ha definito piccola precisazione, ha portato alla scoperta la verità sull'emigrazione intellettuale degli italiani. Perché lei, vogliamo guardare il suo curriculum? Allora, ha cominciato con un dottorato in Germania, ha lavorato in Microsoft, poi a Google, poi ancora a Cambridge, in Canada, in Olanda. In Italia invece risulta sempre seconda. Contratti niente, congratulazioni tante, e insomma, fa bene a non parlare il ministro Giannini. Cantasse infatti. Cocco, co, sentiamo un po'. Confessore, per favore, mi sa di senato prima. Beh, però. Sì, no, Mario, dai, scusa. Mario, ce n'è per te. Ce n'è per te. No, io non so perché niente. Lo sai che i pescatori sardi campavano con quei gamberetti? Lo so. E non lo sapevi. Che campino con i gamberetti lo sappiamo. Perché rispondo all'ascoltatore, io sono figlio di famiglie... un gamberetto. No, anche. Tutti siamo figli dei gamberetti. Andate a controllare. Io sono figlio di famiglie di pescatori, quindi non è che mi devono spiegare come funziona. Ti hanno portato via gamberetti e non lo sapevi. Pisce scatto. Dice pisce scatto. Vai con la bolla. Mamma mia, la guerrera oggi si è scatenata. Sì. Senti qua. Non so se questa è cambiata, è la tua colonna sonora, Mario. Non mi faccio più toccare palla. Da quando l'hai delegata. No, ma sentite questa cosa. Ai ai ai ai, ai ai mio amore. Cioè, allora, tu ti immagini, no, io che vado, che ne so, a Washington, entro in uno di quei palazzi che hanno un gusto un po' francese, eccetera, e mi ritrovo un mariachi. Senti qua. Non si può fare, dai. Ma vabbè, mentre che entri nei palazzi, non è che ti finisci come a Totò e a Nino Taranto che ti fanno entrare solo in questura e non ti fanno più uscire. Ah, ma che bella questura! Vabbè, non si può lavorare seriamente con voi. Me ne vado. Allora, il Papa è in Messico, vorrei dire, ecco perché abbiamo messo un po' di Sud America. Sì. Un milione di persone in piazza anche oggi, diceva Padre Lombardi. Sono tutti cattolici. Un discorso molto duro contro i cartelli della droga, contro il diavolo, il denaro, insomma. È Francesco, e c'è anche una strategia internazionale. In realtà questa è una cosa che mi consente di appendere un chiodo e metterci un quadro, perché volevo chiedere invece a te, Giovanni, e a Pietrangelo, cosa ne pensate dell'incontro del Papa con Kirill di Mosca, che secondo me è stato importante. Io sono molto molto colpito dallo scarso rilievo che è stato dato alla notizia, che secondo me è una notizia che descrive perfettamente un cambio di strategie geopolitiche del mondo, che coinvolgerà in fretta tutti. Cioè, mi sembra che le chiese vadano molto più in fretta della politica. Anche io ho questa impressione. E io dico, Giovanni, che il rilievo è stato scarso dal nostro punto di vista, e nessuno l'ha voluto leggere, perché manca un'informazione, e cioè che forse più della metà del mondo vive la propria quotidianità, il proprio progetto, la propria organizzazione sociale rapportandosi al sacro. Esatto. E quindi non riusciamo a capirlo, pensiamo che siano soltanto superstizioni, eccentricità, non sappiamo che invece è il codice mentale di metà del mondo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Mix 24. Siamo impegnati in una guerra. Questa guerra non si combatte per il momento con uomini armati, ma con le informazioni. C'è una novità importante. Abbiamo una spia sovietica. Fotograferete dall'alto il territorio sovietico. Dica cosa è successo. Hanno preso un nostro pilota con la testa piena di informazioni classificate. Abbiamo il loro uomo. Vogliamo che lei negozi lo scambio per evitare trattative ufficiali. Lei potrebbe evitare una guerra termonucleare totale con l'Unione Sovietica. Le parlo della sicurezza del suo paese. Dove vogliono che abbia luogo la trattativa? A Berlino Est. Dall'emozionante e livida ricostruzione di Spielberg nel Ponte delle Spie alla verità della storia. Perché è proprio lì, a Berlino, che dal dopoguerra alla caduta del muro si combatte una guerra di spie senza esclusione di colpi. Sul ponte di Glienic passava la linea del fronte durante gli anni della guerra fredda e del mondo diviso in due. Da una parte servizi segreti sovietici e della Germania Est, KGB e Stasi, dall'altra gli agenti della CIA e degli alleati europei. Guerra di spie, spietate esecuzioni, tradimenti, fughe, codici segreti e microfilm, e ancora uomini e donne senza scrupoli che combattono con tutte le armi, anche quella della seduzione. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Hai capito? Siamo in piena pieno ritorno della guerra fredda. Gagliardo. Senti, che c'è una no, ma è una cosa meravigliosa che io volevo già commentare prima con voi, ma mi sembrava un po' troppo de cronaca. Però c'è l'appello dei difensori dei due evasi dal carcere di Rebibbia, che dicono: costituitevi subito, perché altrimenti peggiorate la vostra situazione. Ma hai visto che evasione? Beh, fantastica, cioè, fantastica non si può dire, ma insomma è fantastica. L'abbiamo detto. Ma com'è che nessuno si accorge di niente? Ma è meraviglioso, è sorprendente. È uno di quei carceri da dove tu puoi entrare e uscire come vuoi. Quanto costerà un'evasione così? Non lo so, però penso che sia un problema di complicità, di budget, tu dici. Sì. Cioè, ma che hanno segato le sbarre? Pietrangelo, ma non è un po' da avaspettacolo? Letteratura. No? Letteratura. Avaspettacolo, letteratura, citazione d'obbligo. Vai. Totò, quando diceva: purché non mi si dica che io sia un evaso da notte. Beh, no, scusa, c'è anche quella della cassaforte, no? Il metodo Fu Chi Minh. Mm. E tutti che pensavano fosse orientale, invece no, Fu Chi Minh, che era morto. Era veneto, Chi Minh. Sì, era veneto. Era veneto, aprendo la cassaforte. Senti, adesso con Roberto Bernabei, come sempre, commentiamo le notizie più importanti di medicina apparse sulle riviste più prestigiose del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Diabetes Care, ottobre 2015. Saltare la colazione ha senso in pazienti diabetici non trattati con l'insulina? Il diabete è una malattia complicata, è una malattia che viene ben trattata sia dalle compresse che stimolano il pancreas, ovviamente sia dall'insulina, e i ricercatori in questo caso hanno voluto vedere in un gruppo di pazienti che avevano ancora un diabete trattato sia con la dieta che con il trattamento orale, quindi non con l'insulina, se saltare un pasto, in questo caso la colazione, aveva senso. E hanno visto su 22 pazienti con un'età media di 57 anni e una globina glicata di 7,7%, cosa succedeva. E si è visto che succedeva che non bisogna saltare la colazione, perché il glucosio, la glicemia, dopo il pranzo e dopo la cena era significativamente più alta in quelli che avevano saltato la colazione. Questo perché probabilmente c'è un effetto di stimolo comunque delle cellule residue pancreatiche, che sono quelle che secernono l'insulina e che quindi tengono sistemata la glicemia. C'è un effetto di stimolazione se viene fatta una regolare colazione. Questo a dirci che, come sempre, il buon senso, fare le cose normali, aiuta anche se si ha una malattia spesso complicata da trattare come il diabete. E per chiudere sentiamo cosa ha scelto Gloria Guerrera per noi. Mentre lasciamo decantare Sanremo, dedichiamo una canzone alla nostra passione prediletta, l'illusione. Elisa, almeno tu nell'universo. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. E prima la verità, poi mentirà. Noi senza serietà. Come fosse troppo insoddisfatto.